tutti i giorni, quasi almeno anche due volte al giorno, tre volte, dipende da cosa c'è emergenza. Anche stamattina è atterrato. Oh, così io non c'era scritto che non atterrava più lì. Era l'unico punto che può atterrare, perché all'ospedale non ci sono le condizioni di sicurezza per atterrare. C'è l'unico punto lì, e buh. Gonzaga. Oh, bianconato. Ma Gonzaga deve entrare al coso, far entrare i mezzi, adesso non è semplice i mezzi di soccorso, perché ci vuole un'autorizzazione all'area militare, anche all'acquedotto teoricamente, li ho visti atterrare, io a piazzare segni, però cacchio, di lì gli hanno fatto un piazzale segnalato e tutto. Sì, ma... così io sono andato personalmente, perché io ho fatto l'autista di ambulanza per 15-17 anni, quindi sono entrato per più volte, ho preso anche un infartuato che l'ho portato da Cagliari e l'ho portato qua e l'ho portato all'ospedale. Sì, sì, è capitato, li ho visti tante volte, soprattutto quando sono elicotteri militari, quando c'è l'elicottero militare già li fanno entrare, però siccome qua stiamo parlando degli elicotteri della protezione civile, quelli gialli e rossi, non possono atterrare, non hanno le autorizzazioni. Gli elicotteri militari è capitato più di una volta, però al 99% sono sempre voli della protezione civile. Sì, infatti, no, questo che era militare, questo era un elicottero militare, c'era una persona grave, un ragazzo giovane tra l'altro. Infarquato e l'hanno mandato a Sassari, non capisco il perché, però l'hanno trasferito qua a Sassari. Comunque già ne ho visto pure, e poi c'è anche di altre cose che adesso hanno capito, chi fa servizio ambulanza che si guadagna, e quindi tutti adesso stanno facendo servizio ambulanza, vabbè. Prima si faceva come volontario, come lo facevo io ero un volontario, non guadagnavo una lira, lo facevo proprio per spirito d'animo, non guadagnavo niente. I soldi che ci davano un'offerta li mettevamo per comprare cotone, alcol, tutto il materiale che ci serviva, guanti, eccetera, eccetera. Non so, era così, diciamo, un rimborso speso da dare, però adesso qualcuno lo sta facendo come lavoro, io conosco gente che lo fa come lavoro, persone molto vicine a me, e lo fanno per lavoro, gli danno uno stipendio, non è ricco, però qualche cosa per un giovane già basta per sopravvivere, quelli per dire che vivono ancora con i genitori. Perché prima era tutta offerta, per dire, non eri obbligato a dargli i soldi quando veniva l'ambulanza, noi l'abbiamo sempre dato, mio padre è la prima cosa, anche se... Scusate il telefono. Lo so. Ebbene, qui. Mi ha squillato il telefono. Oh, scusate Marco, Luca, ci sei ancora? Gianni, ci sei ancora? Stavo dicendo che quando lo facevo io, sia con la croce blu, vecchia croce blu, non quella di adesso, questa di adesso ha preso il nome della croce blu che c'era prima, quella dell'Ampas per intendersi, quella che dove ero io, e poi anche al CISON abbiamo sempre preso e fatto le cose per offerta, solo esclusivamente se si facevano trasporti a Cagliari, si prendeva un tanto a chilometro, praticamente mi pare che era una fesseria, insomma, a chilometro si prendeva, proprio per la benzina, almeno per pagarci la benzina, se no andavamo di sotto, dovevamo, a volte ci siamo messi le mani in tasca, abbiamo messo anche praticamente ci mettevamo le mani in tasca e mettevamo il gasolio noi o la benzina, secondo il mezzo che dovevamo usare. E tante volte è successo. Non lo so, prima era così, allora ve ne sono troppi, cioè, o meglio che ci siano, però è capitato a noi per questioni di sport, con l'ambulanza a fianco al campo, a cosa, dove eravamo a Sennori mi sembra, ce n'erano due di ambulanza a fianco al campo, a pochi metri, c'era un ragazzo che si è fatto male, ha preso un colpo brutto al collo, alla testa, prima di venire l'ambulanza, e ho fatto, ma se qua, ma quelle non possiamo metterle, non si possono, che la cosa veniva a fare l'ambulanza, e sono venuti dopo mezz'ora, lo sapete quando vedi un ragazzo che sta male e i tempi, sembra che ci sia due ore in terra, magari ci sono passati un quarto d'ora, ti viene l'ansia, catta. Oppure anche qua quando è successo l'altro giorno il problema, mia figlia che ha l'ambulanza, ha detto ma se sono qua vicine da dove abito io, ci sono quelle in via Coso, dietro la caserma Gonzaga, nella discesa. sono nel muro della Gonzaga, e poi ci sono quelle via Milano e via Cardinal Fossati. Ci hanno messo un quarto d'ora ad arrivare. Ho detto, cazzo, ma è possibile così tanto ci vola? Vabbè, adesso io ti posso spiegare com'è la situazione. Allora, praticamente l'ambulanza può essere vicina a quanto vuoi, ma se non è in servizio per quel tipo di servizio del 118, non puoi intervenire. Devi avvisare alla centrale e chiedere se puoi farlo, perché se è vicino, allora sì. Loro non possono dire non lo possiamo fare, devono chiamare la centrale e chiedere se possono fare il servizio. Se no gli dicono no, mandiamo l'ambulanza che è in servizio, te lo dicono loro. E a me è successo che praticamente proprio vicino alla sede questa moto si è sbattuta con una macchina e lui si è fatto male veramente. E ho chiamato il 118 per vedere, perché noi non eravamo in servizio in quel momento lì, ci avevamo la notte noi. E ci hanno detto di prestare i primi soccorsi, che poi mandavano l'ambulanza che c'era di turno, capito? Sì, sì, ho capito, però, cazzo, se vedi uno che sta morendo in terra, cazzo, cosa fai? Ok, aspetta che stanno chiamando Gianni nell'altra banda, voglio vedere che ho sentito chiamare a uno e lo rispondo, se no Mario ci rimane male, dai. E tengo acceso anche qua sul 10 comunque, scusami un attimo. Rieccomi, che è rimasto qua sul 10. Hola? Pronto? Attenzione, Roberto Quadrato, ci sei a Biovasso. Roberto, ci sei? Ci sei, Claudio? Sì, ci sono. Dammi un rapporto di segnale. Il tuo segnale, 9 più 30. Allora, sapere una cosa, che io non ero più di stazionare, là. È tornato tutto a posto. Vabbè, allora quel vento ti aveva creato qualche problema. 9 più 30, ma anche ieri è 9 più 30, Robè. Non capisco cosa sia successo a questa antenna, perché ho tolto l'accordatore diretto e funziona tutto bene. Ho tolto, prima c'è l'accordatore è inserito, però l'ho disinserito, anzi sono diventato ancora di più, 1 e 1, neanche 1 e 1, neanche si muove l'altro. Vabbè, vai, vai a rispondere al telefono, comunque qualche spezzone in corto ci avevi, dai, non è successo niente, passo nuovamente in 2 metri, ciao. Canale 10, c'è qualcuno all'ascolto? Avanti che chiama il 10. Avanti che chiama il 10. Ora, ora, ora. Attenzione, canale 10, stazionare 1. Innoramarag. Ciao. Ciao. Quindi, chi cazzo? Hola, hola. Hola, c'è qualcuno a dirci? Ehi, io ci sono. E bene tu. E allora? Oh. E non che dice zero di stazionaria. Antura, l'antenna è resuscitata, boh, non c'è più niente, tutto quello che c'erano i problemi sono scomparsi, è ritornata come prima, boh. Ma lo sai che pure a me, non ho stazionare io stasera. Cazzo, ma a vero se mi apriamo il bauguro. Cioè, boh. Anzo, ho pure provato ad attaccare l'altro rosmetro. Proprio non ho stazionaria, dovevo aspettare il caldo. Che cosa? Ah sì, mi ha attaccato un rosmetro a Baito. Allora io adesso ci ho messo c'avevo sempre le metti 3000, quello grosso della Magnum, siccome poi l'ho utilizzato per altre cose, ho visto che le stazionali a 1000 mi sono salite, dopodiché ho detto ieri esci che attacco l'accordatore esterno della ZG il TM1000, ho fatto l'accordo, adesso ho attaccato, ho tolto l'accordatore e non cambia niente, 1 e 1, neanche 1 e 1, neanche si muove la lancetta. Sinoga. Ora, ora. Non ha messo niente, sa. Fa un ragazzo con due candele. Perché così già? Ti batti a perte. Ma ce lo metta a zero. Vabbè, ma proprio Duquendi, stai rondando, attenzione che non ci sono qualche rientro. Non è il rientro, no, è che c'è un gatto del goggio, il microfono che vado a far controllare. Ma 60 E allora? È possibile stazionare a zero però, boh, non capisco. Boh, sembra un raddo. Faccio che rotta un attimino, Anto, arrivo tra poco. Kappa. Ora. Attenzione, Roberto. Sei tutto frusci? Già lo so che sta frusci. Vorrò vedere com'è adesso. Adesso va bene. Prendici. Sì, in giro, che sono meno a casa, mi prendo meno a pizza, tanto per mangiare qualche cosa, in macchina, vado a casa. Va attaccato un'altra antenna, va attaccato. E voi sono avvisato. Kappa. Ui. Ai zitta. E se avessi, proviamo, avessi mi intendevo una tesi, con l'altra antenna, capito? Fanculo, a vita. Hola. Guarda a vedere se mi senti. Oh, mi senti? Ciao, antenna, non ti intendo. Cosa hai detto? Quanto ti senti? Mi sentivi con quell'altra antenna? Bassissimo. Lo so, questo è un altro pianeta. Non venno da lì, va. Questa è un'altra storia, Capito? Quello fa proprio sicuro, dai. Ho dovuto attenuare i 20 dB, sennò guai. Mi toccava tutto. Hai fatto bene. Kappa. Oioioi. Vabbè. È un ruccio di coburo, però già funziona per poche cose, già va bene. Sì, dai, poi va bene per pochissime cose, dai. Kappa. Iaga. Dove sei, Cri? C'era la macchina, mi sono sentito un amico a Pisa, per una pizza, da Dani Pizza. Tanto per mangiare una cosina al volo, prima di scendere a casa. Travagliato hai? Mi hai rubato la chiappa del Rognano. Ma sai che hai fatto? Mi hai rubato la chiappa della Reci, mi hai rubato oggi. Non mi sono fermato un attimo. Se vuoi i soldi, è cursimmi. Se no. Quello è un casino, No, perché mi sa clienti volevano mattoni, quello mette a posto la termoidraulica, e i termosifoni, e quello, e tubi, e quell'altro, non so, fumate un altro, io e mio collega siamo tre matti. Vabbè, se c'è il lavoro meglio lo stipendio lo vuoi, allora deve essere così. Cosa stipendio lo vuoi? Sono 50 euro la giornata, Vabbè. No, io se c'è da lavorare, lavoro, me lo fatti nuda. Ma sono 50 la giornata, ma ci sputo sopra, anzi. Di più mi diverto, guarda. Kappa. Però 50 euro una settimana, vale di nembu ciaccarami. Andiamo, catta. Ma che bellina che sei. Andiamo, catta. Qui è casa salutare, stiamo già una buonasera, questa è educazione. E ben Luca, ma stai zitto, pago un muro. Ma sono, vedo, sono notato che ti vuoi mettere una fucilata. Davvero, con lui sai. E occhio. No, non lo fare, dai, cria, ti bari, vogliamo buttare l'antenna adesso. Ma tu dove sei in terra, scusa? Andiamo, catta. Dove vai? L'antenna è già in terra, cosa? Non c'è buttare niente. Oioioi, ma così muovi questa cosa, Luca? Che cosa? Il cordone stazionario, non ce n'è, no. È abitante, non vado in uscita. Bisogna salire lassù quella. Ma la metti più in alto? No. Metto quella base lì. che c'era prima e poi ho preso un palo da 2 metri. Non posso metterla più alta perché a parte del cavo non ci arriva. Come era prima, là? Esatto. Scusa, ma non mi avevi detto che ne avevi dentro casa? Di che cosa? Di cavo. No, ma ci arriva giusto giusto, tanto giusto arriva. E allora la metti sempre alla stessa altezza, là? Sì, però mi sa che devo dare un'occhiata al PL. Al PL disse, mi sa che vuole rifatto. Io PL in bacchette non ne ho. Come cazzo lo posso trovare o comprare? C'è una Fusaro. In bacchette? Per quel tipo di cavo sì. Era chiaro, ma ne chiamo, se ce la vuole ve lo compro. Chiappa, per quel tipo di cavo sì. Perché lo vedo un po' ossidato, dai. Non vorrei avere problemi dopo, cavolo. Ma a me non mi pare che era ossidato. Sì, tu non l'hai visto, ma già ero ossidato. Va bene, dai, che ne so, 8:10, ci sentiamo dopo magari. Ma io aggancio su PMR, se ci sei, Anto, c'è qualcuno, a dopo, ciao. Kappa kappa, mi è una boomerang come di scorta, ti avresti dovuto mettere, ragazzi. E infatti mi sto piazzando anche quella, come seconda antenna. Ce l'hai? Sì, me l'ha portata Marco oggi. Ma cos'è quella piccola e quella grande? La piccola. Va benissimo. Più che bene. Un po' di... cosa li metti? R58 gli andava, cos'è cazzo, ma... Infatti, me lo compro da Fusaro. Adesso vedo quanto è il metro. E ce ne vorranno... vabbè, se metto un palo basso, se no te la metto bassa, non la metto alta. Una ventina di metri. Gabba, dice che stava arrivando questi giorni. Non ne aveva a capo, ma... errore, questione di giorni. Non lo so quanto ne ha. Eia. Andare. Ma vediamo un po' secondo come va più là. O mi metto la nuova Ringo, o mi compro qualcos'altro. Eia. Boh. Se con la antenna me la piazzo là. La vulcanizzo bene. Ma se ho un problema l'antenna uso quella. Kappa, e appunto. O qualche volta la potresti usare anche per comunicare in città. Non è che bisogna pompare chissà quanto, no? In effetti è così. Avanti, Cristian, riprendi, dai, io chiudo che vado via, ciao. Ciao, Cristian.